Fox 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Sergio Chiamparino, 66 anni, sposato con un figlio torinese di Moncaglieri, laurea in scienze politiche, dirigente di partito PC, PDS, DS, PD. Per 10 anni è stato il sindaco di Torino, il più votato e popolare d'Italia. È anche stato presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani. Gestisce con successo i 20esimi giochi olimpici invernali e le relative opere pubbliche, compresa la metropolitana. Nessuno scandalo, ma tanti, tanti debiti. Fra il 2012 e il 2014 è il presidente della Compagnia di San Paolo. Nel giugno 2014 torna in politica ed è eletto presidente della Regione Piemonte. Di Renzi ha detto: a volte sembra un elefante in una cristalleria, ma in Italia ci vuole. Presidente, conferma? Confermo. Ma elefante soprattutto quando? Beh, quando... Col partito? Non solo, anche con la pubblica amministrazione. Senta, rottamazione è una parola di Renzi, è una parola che le piace? Io userei cambiamento, rinnovamento, però per fare l'elefante va bene rottamazione. Senta, adesso anche tra Obama e Raul Castro rottamano insieme l'embargo di Cuba, cambia il mondo? Beh, è un ulteriore segnale che il mondo non possiamo guardare con gli occhi di quando c'era il muro di Berlino. Ma lei si aspettava un Papa così politico? Entrambi hanno ringraziato il Papa. No, anche se ha lontane origini di Portacomaro d'Asti, come anche mia mamma, però non... Ah, quindi è un suo parente il Papa. Portiamo avanti col lavoro. Senta, sempre a proposito di politica, lei è stato 3 anni segretario della CGIL in Piemonte. L'avrebbe fatto lo sciopero politico contro Renzi che ha fatto la Camusso? No. Non l'avrebbe fatto? Sinceramente no. Perché? Perché se io fossi ancora sindacalista avrei chiesto io di rivedere lo Statuto dei diritti dei lavoratori, di costruire, come si dice, un tavolo per dare nuovi diritti, ma anche per rivedere dopo 50 anni che cosa non va. Senta, il mondo è cambiato. Ah, certo, e quindi questo Jobact lei lo voterebbe se fosse in Parlamento? Ho detto lo voterei a due mani, poi questo non vuol dire che tutto sia perfetto. No, certo. Ma quindi un sindacato così non serve più? No, serve, come? No, così. Beh, che fa questi scioperi? Secondo me un sindacato così fa, come si può dire, rappresentanza, tiene alta una bandiera, ecco. Però secondo me ci vorrebbe un sindacato più radicato sui luoghi di lavoro, più decentrato sul tempo, più in grado di accompagnare le trasformazioni. Insomma, che fa, del sistema, che fa trattative vere, che fa trattative aziendali, che fa anche scioperi, che fa anche scioperi, meno, per dirla in sindacato, meno pensionati e pubblico impiego, più fabbrica. Ecco, lei ha detto: io sono molto più di sinistra di chi va in piazza con la bandiera rossa. Ecco, e per questa ragione io sono un vecchio operaista. Ho letto che ha scoperto di essere di sinistra una sera mentre in tram tornava a casa, vero? Non essere di sinistra, ho scoperto che non bastava leggere Marx, perché io tornavo da delle lezioni sul Capitale di Marx e poi, dato che lì si teorizzava la fine del lavoro, mi sono chiesto: ma se quell'autista smette di lavorare io non vado a casa. Ah, quindi ha detto, quindi ero sul 52 sbarrato che da Piazza Arbarello andava a Moncaglieri. Quindi meglio il riformismo, insomma. Appunto, bisogna che l'autista lavori, abbia condizioni buone di lavoro, ma che guidi. Che la porti a casa. Senta, tempo fa lei diceva: a me i padroni, quelli che rischiano, non sono mai dispiaciuti. È sempre vero? Assolutamente. Ma sì, anzi, ne servirebbero di più? Sì, ecco, ce ne vorrebbero di più. Senta, in ogni caso lei si autodefinisce un renziano autonomo. Autonomo da cosa? No, autonomo nel senso che ritengo ogni tanto di avere un qualche mio pensiero autonomo. Senta, ma è sicuro, secondo lei Renzi corre il rischio di diventare un premier senza partito? Ma oggi i partiti sono sempre più identificati con i leader, quindi il rischio ci può anche essere, perché non contano le percentuali elettorali, contano partiti che non siano solo aggregazioni di gruppi di potere, quindi da questo punto di vista secondo me... C'è questa possibilità, è un rischio di scissione? Bisogna... Io questo non ci credo, perché in Italia non c'è bisogno di nuovi partiti, semmai ci sarebbe bisogno di un partito nuovo, veramente, effettivamente nuovo. E Renzi potrebbe farlo? Beh, Renzi lo ha già fatto, perché ha già cambiato molto in profondità. Forse bisognerebbe, diciamo, che anche il partito nel suo modo di vivere concretamente la realtà prendesse più atto del cambiamento che c'è stato. Chiamiamola americanizzazione della politica. Non è un insulto, una bestemmia, però bisogna viverla consapevolmente. Ecco, Renzi oggi è molto bravo a stimolare la rabbia della gente contro i politici delle regioni, ha ragione, eh? Beh, le regioni hanno molte cose da farsi perdonare. La più grave? La più grave, quella che ha impattato di più, è diciamo Rimborsopoli. Però secondo me di più grave c'è il fatto che le regioni sono diventate progressivamente dei centri più di gestione che di programmazione e legislazione, come devono essere all'inizio. Però devo dire la verità, è tutta la pubblica mio. Diciamo, anche per dovere d'ufficio, ma non solo, dico attenzione, perché anche i ministeri non è che siano un esempio di funzionalità, efficienza, però efficace. Intanto il governo ha chiesto alle regioni un segnale di dignità. Che cosa vuol dire? Il segnale di dignità vuol dire quello di fare pulizia al proprio interno e di svolgere il proprio compito, che è quello di essere Ma voi come cercate di darlo? Lei è il presidente dei presidenti delle regioni. Ma noi cerchiamo di darlo intanto accettando di stare dentro a questa logica di tagli e di riqualificazione della spesa insieme allo Stato, e vorremmo che magari lo facesse di più anche lo Stato centrale, e poi cercando di non essere quello che impedisce il rinnovamento dello Stato. Non essere il freno, e da questo punto di vista forse la riforma del titolo quinto che è in corso di discussione potrebbe essere una grande occasione, un grande passo avanti per fare specularmente con lo Statuto dei diritti dei lavoratori anche lì una rivisitazione di un istituto che è nato 40 e più anni fa, che ha dimostrato di essere abbastanza necessita di essere rivisitato. Vabbè, lei è molto educato. Senta Presidente, ma in una regione che ha 11 miliardi di bilancio, 9 miliardi di debiti, era necessario introdurre i premi per i dirigenti regionali? Beh, a parte che questo è un accordo che io ho ereditato, fatto dalle precedenti amministrazioni fin dal 2001, mi pare, quindi molto in là nel tempo. Ci costava di più rischiare i processi per accordi già fatti personalmente. Tenga conto che abbiamo fatto i conti applicando quei incentivi per chi lascia, la regione comunque ci guadagna 300.000 o 400.000 euro. Rispetto a lasciare che ognuno di quelle persone vada in quiescenza quando ne avrebbe diritto, perché bisogna pagargli lo stipendio caso lì. Quindi ci guadagniamo, però dal 2015 è finito. Ma è sicuro che in Piemonte non si ripeta una Rimborsopoli? Ma sicuro è morto, per questo vigiliamo. Senta Presidente Chiamparino, lei è stato il sindaco più popolare d'Italia, poi ha fatto il banchiere, perché è tornato in politica? Ma io non ho fatto il banchiere, ho fatto il presidente della Compagnia di San Paolo, un'altra cosa. Vabbè, la banca sempre. No, è un ente. Banca, gli assomiglia. Si occupa, distribuisce risorse. E perché è tornato alla politica? Perché è tornato alla politica? Se non rischiassi di essere troppo enfatico, per passione. Ma in un mondo che è dominato dai banchieri, però, e i politici sono considerati malissimo. Beh, anche i banchieri, non scherzo. Beh, però politici peggio, mi sembra. È una bella gara. È una bella gara. Senta, poi masochismo in questa scelta, cioè, no, solo passione. Sento, forse magari in fondo un po' di masochismo è uno di noi. Dentro ognuno di noi c'è un po' di masochismo. Da piemontese dobbiamo soffrire come i tifosi del Toro, quale io sono. Senta, prima sindaco, adesso presidente della regione, futuro presidente della Repubblica. Se c'è un difetto che ritengo di non avere, quello di non avere il senso del limite. Non ce l'ha. Quindi chi vede favorito? Allora. Ma in questa fase qui niente di peggio che mettersi a fare il toto presidente. Vabbè, ma lei è fuori. Però proprio per questo. Senta, in un faccia a faccia con me qualche tempo fa l'ingegnere De Benedetti ha detto che vedrebbe bene Fassino, che è il sindaco di Torino. E vale quello che ho detto prima. Niente, non si pronuncia. Niente di peggio che fare Totonomi. Senta, lei presidente e Fassino sindaco, andate d'accordo a Torino? Guarda, io e Piero andiamo d'accordo da circa 40 anni, nel senso che pur sempre con autonomia, però abbiamo sempre fatto... Pure due caratteri mica male. Due caratteri diversi, anche se stiamo alcuni, magari anche mesi, senza avere colloqui diretti. Poi ci ritroviamo che sulle questioni convergiamo. Allora, quindi... mi dice una cosa importante che state facendo insieme? Beh, direi più d'una, stiamo... Mica una proprio che le sembra molto importante. Beh, stiamo portando avanti per esempio una riorganizzazione del settore del trasporto pubblico, sia per quel che riguarda l'offerta, quindi la riorganizzazione aziendale, sia per quel che riguarda la domanda, cioè le gare per i prossimi affidamenti. E funzionano dei i vostri accordi? Sì. Stiamo lavorando insieme, funzionano, stiamo lavorando insieme nella cultura, cercando di, diciamo, migliorare ancora un sistema che pure per Torino è stato, è un fiore all'occhiello e ha consentito di tenere, diciamo, alto la crescita del turismo, oltre che il prestigio, in un momento di crisi che è quella che conosciamo. Senta, ma è vero che però lei gli ha lasciato la città più indebitata d'Italia? Beh, noi abbiamo fatto debiti per fare investimenti, ovviamente è stato necessario rallentare gli investimenti e questo ha consentito di rientrare negli equilibri di bilancio. Nella regione in cui io sono arrivato, dove invece il debito era stato fatto per finanziare disavanzo di parte corrente, mi trovo ad avere il rischio di un disavanzo che può arrivare fino a 7 miliardi, disavanzo e non debito. Senta, ma i debiti che ha fatto sono serviti per fare le Olimpiadi invernali anche? Ma molto parzialmente. Per questa... Ma è stato un buon affare le Olimpiadi? Beh, guardi, le Olimpiadi, la gestione dell'organizzativa, quella del Torino Comitato Olimpico, è finita con 20 milioni di avanzo. L'Agenzia Olimpica, quella che ha fatto gli impianti, stanno finendo adesso i contenziosi, ci sono già 40 milioni di avanzo e probabilmente arriva di più perché i contenziosi si risolvono positivamente. Quindi è una favola quella che... Si sono persi i soldi, certamente noi abbiamo fatto investimenti, certo, ma anche perché abbiamo voluto cogliere l'occasione delle Olimpiadi per fare quello che i torinesi aspettavano da 30 anni, tipo la metropolitana, il rifacimento delle piazze, i parcheggi sotterranei. Questo ha voluto dire indebitarsi. I nostri ascoltatori dicono: Luigi dice Chiamparino al Quirinale, c'hai i tifosi. Esagerumane. Senta, le farebbe le Olimpiadi a Roma del 2024? Lei? L'ho detto. Dovesse, sì. Sì. Cioè, farei la candidatura. Insomma, poi. Sì, vabbè, poi bisogna vedere. Senti, ma dopo l'Expo. Anche perché se un paese pensa nel 2024 di essere ancora come adesso, allora tanto vale che organizziamo un suicidio collettivo. Però, dopo l'Expo, il Mose, adesso Roma, non è che l'Italia dà l'idea di non essere più in grado di fare grandi opere senza sprofondare nella corruzione? Diciamo, se non volessi, per non fare come gli asini di Cavour, che in piemontese si dice slodo da loro, cioè si lodano da soli. Io non ricordo di nuovo le Olimpiadi, noi l'abbiamo fatto, non c'è stato, i conti sono stati passati al setaccio, non c'è stato, qualcuno è stato indagato ed è stato assolto, quindi per cui si possono fare grandi eventi senza rubare, non sta scritto da nessuna parte. Non è obbligatorio. E anzi, bisogna proprio, secondo me, proprio nel momento in cui c'è questa sensazione, bisogna lanciare il cuore oltre lo Stato. Senta, ma con Renzi è tornato al primato della politica, secondo lei? Sta tornando. È un bene? Direi proprio di sì. Senta, intanto, in attesa del Quirinale, sì o no, lei è il presidente dei presidenti delle regioni, l'abbiamo detto, ma servono o no le regioni? Francamente, il presidente secondo della campagna dice di no. Servono, devono essere riorganizzate. Ecco. Si potrebbe, per esempio, cominciare a fare delle cose insieme. Ecco, no, ma insieme fra diverse regioni, ad aggregarle su progetti condivisi, sulla gestione di alcune strutture, anche sanitarie. Ma ecco, ma per esempio in Piemonte 8 su 9 miliardi dei debiti sono per la sanità. No, attenzione, 8 miliardi è il fondo sanitario, i debiti per la sanità sono pochissimi, cioè il grosso dei debiti è lo sblocca prestiti per pagare le imprese, nella sanità ma anche fuori dalla sanità. Quindi non chiuderà ospedali? No, razionalizziamo e miglioriamo il servizio sanitario. Ma razionalizziamo vuol dire chiudere Vuol dire ridurre primariati soprattutto e ridurre potere in molti casi ai primari. Ecco, ieri la Corte di Torino di Appello ha deciso di assolvere dalle accuse di terrorismo i NoTav che erano sotto processo. Comunque, lei pensa che la TAV debba essere fatta? Sì. Perché? Perché è un'opera fondamentale per aprire l'Italia verso una parte d'Europa, che dai tempi dei Romani passa di lì. Senta, parliamo della legge di stabilità. Le sembrano chiare o approssimative le proposte del governo? Alcune cose chiare, come quella degli 80 euro, quindi della scelta, diciamo, espansiva, e altre cose, come tutte le finanziarie, si confondono. Un po' di strategie e un po' di mance. Beh, mance non lo so, per quel che ci riguarda non è così chiaro, ad esempio, che cosa succederà se la sanità, se verrà mantenuto l'aumento, se verrà ridotto. Cioè, vabbè, come sempre c'è un po' di confusione. Senta, per molti però questa legge è scritta in italiano ma dettata in tedesco, è vero? No, non credo. Secondo me, se c'è una volta... C'è le idee più chiare i tedeschi, dici? Che i tedeschi abbiano idee chiare, questo non c'è dubbio, anche perché le idee sono chiare in funzione della forza della propria economia. Però se c'è una volta in cui non siamo solo andati a Bruxelles e abbiamo tradotto quello che ci dicevano in italiano, è questa volta. E quindi lei il rischio di avere la troica in primavera non lo vede, Ma questo non so valutare, però credo che sia possibile, non credo ci sia questo rischio imminente o probabile. In Europa deve andare e battere i pugni sul tavolo e dire basta, dobbiamo fare lo sviluppo, il 3% si sfonda? Ma guardi, secondo me Renzi comunque è negli ultimi anni la prima volta, ripeto, che un premier non è andato solo a prendere una lettera, a tradurla in italiano e a portarla in Italia. Ecco, ma che cosa abbiamo fatto nel semestre italiano? Ma abbiamo cercato di negoziare questa flessibilità, che mi sembra sia... Ma dovremmo vedere se arriviamo a portarla a casa. E vediamo se la portiamo a casa. Però che contiamo poco in Europa mi sembra chiaro, perché i Marò non sono riusciti a diventare neanche un problema europeo, nonostante noi abbiamo la guida della politica estera con la Mogherini. Beh, un bello smacco, Beh, basta, se vogliamo citare anche tutta la questione degli sbarchi. Beh, naturalmente, che è un tema drammatico. Ma là sono tantissimi, i Marò sono due, e farlo diventare un problema europeo guidando l'Europa non era difficilissimo. Secondo me può essere che noi non contiamo abbastanza, ma certamente anche l'Europa, che in politica conta poco sul piano internazionale. Certo. La crescita, la Francia però, tornando alle regioni... Anche perché i paesi, anche perché l'Europa è ricca, ricca edonista, e quindi quando si è ricchi edonisti si conta poco in politica. Interessante. La Francia, per avere in Europa più soldi per la crescita, ha dimezzato le regioni e ha ridotto la burocrazia. Può essere la strada, Io sono pronto, anche perché si sta discutendo una riforma importante, quella del titolo quinto, sì, la seconda Camera, e dico io, come presidente della conferenza, sono pronto a sedermi a un tavolo a discutere di questi temi. La Lombardia dice bastano 9. Se il governo è pronto, noi siamo pronti a discutere su un riordino anche territoriale delle che regioni. Significa riduzione e anche ridefinizione assai più drastica di quello che sta avvenendo al Senato sull'attribuzione di funzioni. Però deve essere. Io sono pronto a questa sfida. La Lombardia dice che bastano 9 macroregioni. Ma guarda, è inutile, io dica, potrei dire ce ne vogliono 10, 7, cioè facciamo discutiamolo. Io sono pronto ad affrontare questa discussione, però bisogna che ci sia un interlocutore al tavolo, non possiamo farla da soli. Sennò... Intanto le regioni però, per aggirare in qualche modo questa legge di stabilità, propongono il patto verticale. Che vuol dire? Il patto verticale è una cosa utile, vuol dire che noi il governo passa di 1 miliardo che noi col quale noi consentiamo ai comuni di sforare il patto di stabilità in modo flessibile, avendo la priorità di pagare i debiti alle imprese, soprattutto per opere nel campo del dissesto idrogeologico e della sicurezza delle scuole. Quindi per fondamentale capirci, per i comuni. Cioè, questo vuol dire. Per capirci, secondo lei un sindaco per fare le opere necessarie è meglio che sfori il patto di stabilità piuttosto che guardi il fiume che esonda? Ma io io fossi ancora sindaco, certamente dovendo scegliere scelgo anche di sfondare il patto legge. Di sfondare il patto e non far sfondare gli argini, quindi anche in violazione della legge in quel caso. Sì. Senta, il patto del Nazareno con Berlusconi lei l'avrebbe fatto? Ma io avrei cercato, condiviso? Però per condividere un Presidente della Repubblica bisogna anche poi dimostrare una certa forza politica anche su altri temi, perché sennò è troppo comodo. Quindi solo chiedere e non dare. Senta, il governo con la legge Delrio ha sciolto le province. Dal 1 gennaio ci saranno senza lavoro, non so, 20.000 persone, 20.000 colletti bianchi. Che fine faranno? Ma noi abbiamo, una parte di questi lavoreranno sulle funzioni fondamentali che la legge del Rio assegna alle medesime province chiamate nuove province. Gli altri, io ho fatto una proposta, ho detto li prendiamo in carico da subito noi, però dateci le risorse necessarie. Vabbè, perché certo, non è che possiamo prenderci il personale senza i soldi. Vabbè, e quindi sarà un problema dal 1 gennaio. È un problema che io ho posto sulla legge di stabilità, di quelli su cui non ho chiaro che cosa ha risposto ancora il governo. Ma quindi rischia addirittura di essere il suo commissario, il commissario di se stesso lei? Ma io, se la legge di stabilità lo approva, sono commissario per la parte dei 5 miliardi di euro che sono quelli della legge per lo cosiddetto sblocca prestiti, con cui posso pagare le imprese che aspettano magari anche da 2 anni di essere pagate, e lo posso fare come commissario del governo senza violare l'articolo 119 della Costituzione, e non lo potrei fare da Presidente della Regione. Senta, Presidente Chiapparino, vedendola girare per Torino, mi è capitato, per tutti, lei è il sindaco, è Chiampa, è sindaco, le fa piacere questo? Sì, sì, vivo lì, poi il sindaco è una cosa che resta, insomma. Ma ha nostalgia di quel rapporto diretto? Nostalgia non mi appartiene. Non le piace. Però non, questo rapporto... Lo ricordo con grande piacere. Ma al di là del fatto personale, non vuole anche dire che la regione è una cosa lontana, che viene percepita chissà dov'è, il comune invece c'è? Certamente questo, sì, questo. il sindaco. Senta, dopo lo scandalo di Roma, il Ministero di Giustizia sta smantellando, così mi risulta, le cooperative che gestivano la formazione dei detenuti nelle cucine delle Vallette, non solo, e anche di altri carceri. Ma interverrà lei per difendere questa situazione? Ma chiederò al garante dei detenuti, francamente mi sembra antico vizio italico, no? Che si corre dietro ai titoli dei giornali del giorno prima o del giorno dopo, mentre invece... Forse bisognerebbe riflettere un po' meglio. E non è che per qualcuno ruba, bisogna smantellare tutto quello... Io ho visto a Padova delle cose meravigliose fatte. Ma anche a Torino. Appunto, in vari carceri, cose molto molto importanti. Che se posso, fare qualcosa lo farei per evitarlo. Senta Presidente, le faccio un'ultima domanda. Ma è vero che lei è un grande ballerino? Ma grande è una parola grossa. Diciamo un po' da anni 60. Ah, sì, twist, rock and roll e lente. Ah, bene bene. Mix 24. Mario, allora Chiapparino, che titolo faresti intervista? Ci sono emerse un po' di critiche alle regioni, giustamente, quindi faccio un calembour. Il sonno della regione. Sonno della ragione. E tu, Pietrangelo? Un renziano autonomo, soprattutto da Renzi. Carino. Musica. Corri dietro al vento, è sempre una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andare lontano, puoi volarmi nella mano. Cosa, cosa pensi? Tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. E allora? Questa metropolitana stamattina? Questa metropolitana stamattina, come ogni mattina, come sempre, è un luogo dove non si riesce a contare l'infinità di anime, la gente che si incontra ad ogni spostamento, e quindi si finisce dentro agli occhi degli altri e ci si casca come in un pozzo da cui uscire. E l'unica scala che ci aiuta ad uscire è quella i cui pioli sono fatti di bugie, di cortesie, di prego, permesso, si accomodi. Ed è, c'è sempre quella paura di andare lontano o volare, come canta Lucio Dalla in Cara dentro una mano. E allora il fatto è sempre quello: la notte è madre, il giorno è padre, e non si fermano mai le lacrime ridendo, piuttosto lasciandosi mutare da carne in disegno. E la corsa in metropolitana diventa un fumetto, come un albo di Topolino, dove tra i supereroi, per ogni Paperinic, c'è sempre la vendicatrice romantica. Che bella mattina, cielo e sereno. Tre Martini stamattina? No, tre Martini mi ci vogliono per cominciare a fare come fa lui. Ah, va bene. Devo scoprire cosa prende. Cinque preghiere al giorno in direzione di Mecca, superiore a qualsiasi Martini. E bolle. Vai. Cameron che otterrà il suo quinto mandato al congresso semplicemente registrando la sua candidatura. È uno dei vantaggi del non avere un avversario. Ciao! E quello chi è? È sempre stato il mio sogno, candidarmi al congresso. Ora che mi sono candidato, ficcheranno il naso nella nostra famiglia. Qualcuno vuole confessarmi qualche piccolo segreto? Ho nominato il nome di Dio invano. Vedi che è sempre la religione. Arriva, insomma, allora, candidati, cose che succedono, elezioni, tanto ci sono le candidature, il Toto Quirinale, del quale butta fuoco sa tutto, poi c'è la partita della legge elettorale, insomma, la domanda che si pone il cittadino in chiusura di 2014 è cosa succede? Niente. Tutto e niente, si va allegramente verso il panettone. Oggi alle 11, quindi tra poco, ci sono gli auguri di Natale tra Napolitano e il corpo diplomatico, occasione per parlare ovviamente di politica estera Europa, interessante da seguire. Poi vabbè, il patto Berlusconi-Renzi si conferma, non è che c'è bisogno neanche di questo evento, ma insomma l'Italicum andrà in aula secondo i piani, poi vediamo se saranno rispettati il 20 gennaio e da quel momento in poi si voterà il Presidente la Repubblica. C'è una clausola, e cioè la nuova legge elettorale entrerà in vigore il 1 settembre del 2016, che significa che Berlusconi e tutti vogliono cautelarsi, diciamo, sulle elezioni anticipate. Sì, vabbè, però realtà, stiamo parlando di cose che ancora non sono operative. In realtà, esatto, questo è il piano. Poi bisogna vedere che cosa succede. In ogni caso, per me rimane sempre una impossibile. Ancora una bolla. Beh, sono un grande gruppo, Buena Vista Social Club, è un bel sound, senti che bello. Questa è la Cuba migliore, e poi c'è stata anche la peggiore, ma insomma, intanto c'è il disgelo, cioè Obama ha fatto il passo, Raul Castro pure, però i repubblicani, io segnalo, il Papa mi sembra che l'abbia benedetto. Beh, il Papa praticamente, insomma, è stato il protagonista sotterraneo di questa cosa, o quasi. Però i repubblicani mica tanto sono d'accordo. Io segnalo, certo, che il senatore Marco Rubio ha annunciato che il congresso mai, se uno giammai, va in Florida, mai, giammai, e poi mai darà il consenso a, diciamo, levare le sanzioni, quantomeno. Quindi lui dice che la Casa Bianca concede tutto senza avere niente, c'è anche il fatto che loro possono mettere il veto sulla nomina dell'ambasciatore, probabilmente lo faranno. Sono interessanti i numeri, secondo me, del turismo cubano, quindi la prospettiva economica, 2.8 milioni di turisti nel 2012, fa meglio soltanto la Repubblica Dominicana, e ci vanno pure gli americani, nonostante embargo, sanzioni, restrizioni e così via, sono stati 80.000, e poi fanno i furbacchioni, volano in Messico e poi sbarcano a Cuba, quindi insomma. Vabbè, vedremo. Era ora di chiudere. Salamino. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Salamini di teatro, teatro di Salamini, insomma. Caro Giovanni, allora la questione è semplicissima. Si dà da fare per aiutare il nostro teatro. Il ministero, per esempio, s'ammazza per cercare di muoversi, soprattutto contro gli enti regionali periferici e soprattutto contro gli istituti di credito che partecipano dell'asfissia, ma l'art bonus, cioè la misura che consente ai privati di detrarre il 65% delle donazioni, e questo viene fatto in favore di musei, di siti archeologici, di archivi, di biblioteche, è stata estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche, ma non ai teatri, per esempio non al Piccolo di Milano, non al Franco Parenti. E sempre a proposito di Milano, a proposito di come si abbia in disprezzo la fatica tutta di eccellenza dell'arte italiana, colpisce un fatto, e cioè che l'Expo, lo so, è una struttura privata, lo so, decidono loro. Comunque colpisce che l'Expo abbia stanziato, e in una pubblica denuncia un maestro del teatro italiano qual è Piero Maccarinelli lo ha sottolineato, l'Expo ha stanziato 8.250.000 euro per le Cirque du Soleil, una produzione canadese che in proprio potrebbe benissimo sbigliettare senza necessità di stanziamento alcuno, e 0 euro al Teatro Piccolo, 0 euro alla Scala, 0 euro all'Italia, quando per inciso il Canada non rientra neppure tra i paesi partecipanti all'Expo. Vorrei dare una risposta al Cirque du Soleil con le struggenti note di Nino Rota. Zero 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, il canzoniere. La vecchiaia, e questo è il nome che gli altri le danno, può essere il tempo della nostra felicità. L'animale è morto o è quasi morto, rimangono l'uomo e la sua anima, vivo tra forme luminose e vaghe che non sono ancora le tenebre. Mix 24. Ancora una bolla, Mario. Vai con un grande. People are crazy, talks are straight. I'm locked in tight, I'm out of range. Allora, questo è un pezzo di Bob Dylan, Things Have Changed. Perché? Perché tutto sta cambiando. Allora, abbiamo il caro oro nero, cioè il crollo del prezzo del petrolio, che sta innescando tutta una serie di eventi che, diciamo, agli occhi delle persone che non guardano, che non leggono, che non osservano l'economia tutti i giorni, possono sembrare un po' bizzarre. Però insomma, il fatto che da giugno il prezzo del barile sia sceso del 48%, qualcosa vuol dire. Intanto sono stati cancellati i piani di investimento delle compagnie petrolifere per $1 trilione. Chevron ha appena cancellato un suo progetto per trivellare l'Artico, e questo stop è dovuto al fatto che l'Artico è una delle zone dove le esplorazioni sono più costose. Altre conseguenze? Beh, ce ne sono di incredibili, perché per esempio pensate al business dell'energia verde. Se il petrolio è meno caro, no? Si sceglie il petrolio. Certo. Perché non devi fare modo di rimetterlo sul mercato. Certo, non devi fare rivoluzione tecnologica, non devi cambiare gli impianti, non devi fare investimenti in hardware e così via. Auto elettrica. Sono crollate le vendite nell'ultimo mese, tanto per dire. Insomma, il petrolio. Guardate che l'era del petrolio, prima che finisca. Combatte prima di morire. Ah, questo è sicuro. Pietrangelo, ancora un salamino. Ancora Olimpiadi. Allora, è spuntata la clamorosa proposta: fare il tiro con l'arco in Piazza San Pietro, che è un sito olimpico che nessun'altra città può vantare. Ci mancava. Non sono arrivati i cavalli dei cosacchi ad abbeverarsi alle fontane del Vaticano, ma i membri del Comitato Internazionale per le Olimpiadi potrebbero convincersi a segnare a Roma i giochi, fosse solo per avere il Papa a segnare i punti. Ma Roma ovviamente si presta tantissimo, perché comunque ci sono anche altri siti non sufficientemente cattolici, ma allettanti. Per esempio, a Caracalla. Alle terme di Caracalla i romani giocavano palla. Ecco, a Caracalla, per esempio, i giochi della palla. Ma poi abbiamo il Colosseo. E il Colosseo è, insomma, si presta per restituire finalmente quelle pietre ai gladiatori. Ascoltate. Per le gare di lotta non avrò bisogno di voi, perché ho in serbo una carta speciale. Vedrete il lottatore che tutto il mondo antico ci invidierà. L'uomo più forte del mondo. Non teme né la paura né il dolore. coppa, 5 buoi ogni mattina a colazione. Schiaccia le noci di cocco con le mani per estrarne il latte. È una macchina da sberle, una montagna di muscoli. L'ho chiamato Mastro Lindus. Ecco Mastro Lindus che finalmente ritorna al Colosseo. E poi insomma io dico che è un'occasione buona, anche perché nel frattempo, organizzando magari le gare dei carri al Circo Massimo, può succedere che l'opportunità si colga, e cioè di cambiare il sindaco, di togliere Marino e mettere al suo posto chi? Asterix! E finalmente rendere Obelix giustizia a Vercingetorige e salutare trionfale Asterix, sindaco di Roma. Grande Ari! Eccoli, aria d'amore, buscoso, meraviglioso, vale per tre. Giovanni. Mi piace. Ah, abbiamo Giovanni. Vincenzo da Cagliari. No, io solo un anno, no. Quattro Martini. Quattro Martini, no. E mitico alla follia. Vincenzo da Cagliari, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, come va? Che tempo fa a Cagliari? Ma in questo momento piovigina. Piovigina. Sì, mi dica un po'. Ma hai indovinato? Sì, Elogio dell'ombra di Jorge Luis Borges. Ah, giusto! Bravissimo, bravissimo. Grazie. È a casa o in macchina? No, sono col furgone e sto consegnando frutta e verdura. Ah, frutta e bridura. Fantastico. Esatto. Bene, esatto, bene. Allora, Natale tira? Tira le feste di Natale, la vacanza? Sì, diciamo di sì, dai, non ci lamentiamo perché... Sono turisti? Sì, un pochino, però l'agricoltore deve essere sempre ottimista, altrimenti non fa questo lavoro. Noi siamo agricoltori. Bene. Bene, bene, complimenti allora. Grazie, complimenti grazie a voi. Grazie, grazie. C'è ancora, dunque, no, adesso ci godiamo, dopo il giornale radio, Walter Chiari. Guardi, io voglio che mia figlia sia la più raccomandata di tutte. Deve fare il provino e dopo dormo tranquilla. Ma io ho già detto, il provino, sua figlia, è come se gliel'avessero già fatto, è una cosa sicurissima. Soltanto che dipende da lei, insomma, è semplice, no? Ho capito, sa come dimo a Roma noi? Un pi se non dai. Sa che lei, oltre che simpatica, è anche intelligente. Vero, ma hanno detto tutti. Erano Anna Magnani, Walter Chiari, attore di prosa, di cinema, soprattutto grandissimo e popolarissimo personaggio televisivo. Oggi con Marina Milone raccontiamo la carriera e la vita di questo grande comico presentatore, un'esistenza vissuta sempre sotto i riflettori e fianco di donne bellissime e fatta anche di molte cadute. E per chiudere, la canzone è Anna di Lucio Battisti.